Stringo i lacci e chiudo la porta. Esco. La strada è lunga, la vita è corta. Fa presto. Quello che pensano non importa. Fa presto. Questa gente di merda mi ricorda che posso fidarmi solo di me. Solo di me. Posso fidarmi solo di me. Solo di me. Scusa, per oggi la merda è troppa. Sarà per un'altra volta. Conto quanti sono, compro un cuore nuovo. Da un bel po' capito quanto cazzo sono solo. Le persone non mi amano, io non amo loro. Che l'amore è un M8 pronto a farmi un foro. Trasformarmi poco in tutta la merda che odio. Io non sono Dio, io non li perdono. Ti spiego come va. Nel secondo millennio per l'umanità, la droga è la nuova forza di gravità. Per colpa d'ogni fame ora vivo senza più un'anima. Voglio sprecare i soldi, di certo neanche una lacrima. Metto schemi e fans, esco con gli bra, sempre in prima fila all'open bar. Vita da rockstar, da rockstar. Metto schemi e fans, esco con gli bra, sempre in prima fila all'open bar. Vita da rockstar, da rockstar. Stringo i lacci e chiudo la porta. Esco. La strada è lunga, la vita è corta. Presto. Quello che pensano non importa. Presto. Questa gente di merda mi ricorda che posso fidarmi solo di me. Solo di me. Posso fidarmi solo di me. Solo di me. Scusa, per oggi la merda è troppa. Sarà per un'altra volta. Mal di testa quando mi alzo, non so che mangio a pranzo. Ho una figa sul mio cazzo, la mia vita è già un romanzo. La mia vita è già un romanzo. Yeah. Tu mi vedi in video, oh, io vedo l'invidia. Scusa se mi chiedo, oh, perché sei ancora in vita. Non voglio una villa, voglio girare il mondo. Non vado all'inferno, io vado molto più in fondo. Vogliono il mio flow, ma non si può, non si può. Posa quel microfono e torna a fare il tossico. Fallito. 1-0-0 a 1-0-0 al grammo. 100 in un'ora, in 7 giorni quanto fanno. Il mio amico che l'itara vende senza taglio. Cecchino, la testa di ogni scarso è il mio bersaglio. Yeah, yeah, sir. Non sbaglia, che cambia il rap in Italia. Troppi repettari senza repertorio. C'è qualcuno che spacca più di me. Non mi pare proprio. No, no. Metto skinny e fans, esco con gli bra, sempre in prima fila all'open bar. Vita da rockstar, da rockstar. Metto skinny e fans, esco con gli bra, sempre in prima fila all'open bar. Vita da rockstar, da rockstar. Stringo i lacci e chiudo la porta. Esco. La strada è lunga, la vita è corta. Presto. Quello che pensano non importa. Presto. Questa gente di merda mi ricorda che posso fidarmi solo di me. Solo di me. Posso fidarmi solo di me. Solo di me. Scusa, per oggi la merda è troppa.